24 mattino. Ritrovati, già da qualche giorno ci diamo il buongiorno nel 2015, per chi facesse fatica comunque a sintonizzarsi con il nuovo anno. Sono in onda delle puntate speciali di 24 mattini, io sono Irene Zerbini e avremo ancora tre incontri, diciamo così, insieme. Soprattutto abbiamo la rassegna stampa curata da Giulia Crivelli, che saluto, buongiorno, ben ritrovata Giulia. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti, buon lunedì. E cosa c'è in primo piano oggi sui giornali? Ah, la fotonotizia è quella tremenda del crollo del viadotto che collega Palermo e Agrigento a 10 giorni dalla sua inaugurazione. Questa è un po' la cosa che fa più effetto. E poi naturalmente tutte le novità fiscali delle leggi che sono entrate in vigore il 1 gennaio, di cui so parlerai in parte anche tu. E poi molto spazio anche alle nomine fatte ieri da Papa Francesco dei nuovi cardinali. Noi alle 8:30 torneremo su una decisione del Consiglio dei Ministri, cioè negare il rinnovo della sospensione degli sfratti per finita locazione. Attenti, perché c'è un po' di confusione quando si arriva al pianeta case, al pianeta sfratti. Stiamo parlando di un ambito particolare che era concesso alle famiglie cosiddette disagiate, cioè con alcune caratteristiche, famiglie che avevano, che hanno malati terminali, che hanno situazioni di handicap all'interno del loro nucleo, handicap grave, ma che non sono morosi, nel senso che hanno sempre pagato il canone di locazione, semplicemente hanno un contratto scaduto. Ecco, a fronte di questo lancia l'allarme l'Unione Inquilini, ci saranno altri 30.000 sfratti in arrivo che andranno ad aggravare la situazione già tesa di povertà e disagio in Italia. C'è poi invece chi dice attenzione, non succederà questo perché sono stati stanziati 450 milioni di euro. Insomma, tutto un dibattito che avremo alle 8:30 per capire soprattutto cosa fare sul fronte dell'edilizia pubblica, guardando come sempre anche all'estero e gli altri modelli. Io però, Giulia, ti lascio il microfono per la rassegna stampa, ci risentiamo più tardi. A più tardi, Irene. Dicevamo quindi sulle prime pagine un po' tutte queste norme che sono proprio fresche di approvazione e fresche di entrata in vigore. Quindi il tema poi in particolare, come abbiamo già visto sabato e anche sui giornali di ieri, è quello di questa norma sui reati fiscali con questa depenalizzazione quando l'evasione fosse stata inferiore al 3%, e però poi si è scoperto che allora in questo caso verrebbe depenalizzato anche il reato per il quale è stato condannato Berlusconi nel caso di Mediaset. E quindi grande confusione, no, non era, c'è la vignetta di Giannelli che sintetizza abbastanza bene questo, con Berlusconi che trova nella calza della Befana questo dono appunto della depenalizzazione del reato per il quale è già stato condannato. Alla Befana non ci credo, ma al Nazareno sì, perché molti ipotizzano che ci fosse quasi un accordo in quel patto del Nazareno che ha sancito l'accordo tra Berlusconi e il PD guidato da Matteo Renzi, e quindi il governo, sulle riforme, ci fosse anche questo, ma Matteo Renzi ha negato, tant'è che appunto il titolo del Corriere della Sera è reati fiscali, la marcia indietro, il governo è costretto a congelare l'articolo sulla non punibilità e Renzi appunto garantisce non c'è stato alcun inciucio. Ma vedremo poi alcuni approfondimenti. Come dicevo, la fotonotizia è quella veramente impressionante di questa strada che collega Palermo a Agrigento, con questo crollo che non ha causato vittime per il semplice fatto che la strada era deserta, e è un viadotto che è costato 13 milioni ed è crollato appunto il 30 dicembre. Anche in questo caso è intervenuto Renzi dicendo che ha sbagliato pagherà tutto, e l'ANAS, che è l'associazione che deve garantire la manutenzione delle strade e la sicurezza delle strade di tutta Italia, ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta, l'articolo di Sergio Rizzo. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo di Calabrò su queste nomine annunciate da Papa Francesco, i nuovi cardinali, che il Corriere della Sera definisce sorprendenti. E poi un approfondimento di Ennio Caretto, che inizia in copertina e continua a pagina 13, quando Reagan spinse Gorbaciov. Infatti erano esattamente 30 anni fa, più o meno 30 anni fa, cioè l'11 marzo del 1985, quando apparve sulla scena internazionale l'uomo nuovo sovietico, l'uomo del cambiamento, vanamente atteso dalla morte di Stalin, che era avvenuta nel 1985. 1953. Naturalmente parliamo di Mikhail Gorbaciov, di cui forse chi ha ascoltato Mix 24 durante la settimana, o io per esempio l'ho sentito in replica ieri, ha parlato anche Giovanni Minoli, ricordando in particolare il lato privato di Gorbaciov e la sua grande storia d'amore con la moglie Raissa. La prima pagina della Repubblica: stop al salva Berlusconi, Renzi ferma la norma, come abbiamo visto, nessun inciucio, non facciamo leggi ad personam, il tesoro riscriverà il decreto. La fotonotizia in questo caso è dedicata all'Expo, la grande esposizione universale che inizierà a Milano il 1° maggio di quest'anno. È la foto del cantiere di Expo. Un'inchiesta di Repubblica di Piero Colaprico ci spiega come sia stata già bloccata per mafia un'azienda su 8 di tutte quelle che stanno, alle quali sono stati affidati degli appalti. Su 367 aziende controllate, 48 non hanno passato l'esame. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, che sapete è proprio un'edizione di approfondimento, non è, e anche per questo non ci sono le notizie di cronaca come ci sono su altri giornali, perché è un'edizione, lo ricordo sempre perché guardandolo magari potrebbe non sembrare così, è un'edizione che viene chiusa in realtà al venerdì sera, quindi per questo appunto manca la cronaca della giornata precedente. Ma il titolo è un'inchiesta che poi continua a pagina 3 su come la crisi si palesi anche nei tribunali. In che senso? Che c'è un balzo degli sfratti, più 46%, proprio ne parlava Irene, di un tipo particolare di sfratti, qui parliamo in generale degli sfratti. I fallimenti e le ingiunzioni sono aumentate del 21%, la rilevazione del Sole 24 Ore in 56 sedi giudiziarie sull'andamento delle cause nel periodo 2011-2014, cioè anche il periodo se volete più grave di questa crisi, che il cui inizio tutti identificano con il crollo di Lehman Brothers nel settembre del 2008, ma quella fu l'origine negli Stati Uniti. Il 2009 fu un po' un anno di transizione e la vera deflagrazione in Europa, in particolare in Italia, si è avuta proprio dal 2011 in poi, tant'è che appunto questa rilevazione in 56 tribunali si concentra proprio sul periodo dopo il 2011. Una sorpresa invece viene dall'articolo di Gianni Trovati, poi, che inizia in copertina e continua a pagina 4, un confronto di tutte le università italiane. E Chieti, l'Università di Chieti, una piccola università dell'Abruzzo, però appunto che ha fatto molti miglioramenti negli ultimi anni, Chieti in testa nella corsa ai fondi per le università virtuose. E poi trovate tutti gli approfondimenti, come vi dicevo, a pagina 4. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso dedicata alla vicenda di questa norma considerata ad personam o contra personam, come vedremo su altri giornali. Il titolo: Fisco Renzi sospende subito la norma salva Berlusconi. La fotonotizia è la stessa di quel viadotto crollato, ma vi segnalo il reportage di Domenico Quirico, che spiega come approfondisce il problema dei clandestini su queste navi. Pare lo spunto è stato anche la tragedia del Norman Atlantic, una nave che collegava la Grecia con l'Italia e che molto probabilmente ospitava anche dei clandestini, e Domenico Quirico spiega come su queste navi fantasma, o magari queste navi con delle liste passeggeri fantasma, ci siano anche molti siriani, e in questo caso non i più disperati dei siriani, ma la classe media che Domenico Quirico ci spiega sta fuggendo dalla Siria. Il Messaggero, stesso titolo principale: Fisco Renzi rinvia, ho deciso io. E poi troviamo due notizie, uno è un approfondimento che è sparito dalle prime pagine degli altri giornali, sempre sul caso dell'assenteismo dei vigili a Roma nella notte di Capodanno. Il titolo: assenteismo a Roma, i sindacati dei vigili nel mirino del garante, oggi ci saranno gli interrogatori dei 44 agenti già definiti ingiustificati, cioè che hanno presentato le giustificazioni ma che in realtà non sono valide. Per quanto riguarda l'ATAC, che è l'azienda che gestisce tutti i trasporti di Roma, nei controlli IMSS il 30% di casi è sospetti. Ma vi segnalo anche un'altra notizia che riguarda in questo caso non l'assenteismo ma gli sprechi, in particolare della pubblica amministrazione. Ci racconta Diodato Pirone sulla prima pagina del Messaggero, e poi a pagina 9 i rotoloni d'oro della difesa costano 17 euro l'uno, i rotoloni di Scottex, che credo che, non so, l'ultima volta che li ho comprati al supermercato per un pacco di 3, mi sembra di aver speso 3,50 euro, già mi sembrava tanto. Ecco, in copia della Gazzetta Ufficiale, che pubblica i risultati dell'appalto, porta la data del 2 gennaio 2015, quindi i rotoloni che vengono usati alla difesa costano 17 euro l'uno. Il Giornale titola sulla vicenda di questa norma che depenalizzava appunto quella che viene definita la microevasione, ma siccome è in percentuale, naturalmente dipende dalla cifra a cui si fa riferimento, quindi comunque microevasione, così la definisce il giornale, si rimangiano il fisco giusto. Il governo blocca una norma di buon senso che depenalizzava la microevasione, quella che spesso si commette per errore. Il motivo avrebbe aiutato il cavaliere. Non è vero, ma così migliaia di italiani saranno colpiti in nome dell'antiberlusconismo. L'articolo è del direttore Alessandro Sallusti. In prima pagina anche un richiamo all'inserto del lunedì del giornale che si chiama Controcorrente. Il titolo è dedicato a Prodi perché il giornale ha fatto un po' le pulci, diciamo, comunque ha fatto una radiografia proprio alle entrate di Prodi. E ha scoperto che ogni mese incassa 15.000 euro tra le sue tre entrate. E naturalmente il giornale è molto polemico, dice ora vuole prendersi anche il colle. La Gazzetta dello Sport è la prima pagina dedicata al calciomercato, visto che ancora ieri, adesso stasera ci sarà l'anticipo Lazio-Sampdoria, però ieri tutti a digiuno di calcio giocato, e quindi il titolo alla prova dei nove, cioè i nove giocatori, Sneijder, Rolando, Shaqiri, Lavezzi, Diarra, Ciriches, Diamanti, Suarez e Höth, che sarebbero i più, insomma, quelli sui quali si stanno concentrando le trattative. Un accenno al Real Madrid di Ancelotti, che dopo 22 vittorie di seguito ieri è stato battuto. Ma insomma, sembra che la Gazzetta titola clamoroso Real KO a Valencia dopo 22 vittorie. Il foglio ha l'approfondimento principale dedicato un po' a una collezione di quello che siamo riusciti a sapere finora sui clandestini che erano, no, a bordo della Norman Atlantic, ma che naturalmente sono a bordo di tantissime altre navi, appunto un po' quello anche che ci racconta Domenico Quirico sulla stampa. Il titolo: La battaglia navale dei clandestini, con appunto citazioni da vari giornali. Aspetta, che il foglio del lunedì è una raccoglia. È quello che, secondo i giornalisti del Foglio, in particolare il suo direttore Giuliano Ferrara, è il meglio della stampa della settimana precedente. L'articolo di Giuliano Ferrara, che ogni lunedì è sulla prima pagina del Foglio, questa volta è dedicata a quella manifestazione che abbiamo segnalato anche sabato, ospitata in regione, che ha come oggetto la cura dei gay, e quindi l'assunto che essere omosessuali sia una malattia che va curata. E Giuliano Ferrara è molto critico con questa idea, addirittura la definisce una scemenza col botto e intollerante. L'ultima cosa che vi segnalo dalla prima pagina del Foglio, un lunghissimo articolo che era apparso sul Post nel 2013, ma che viene ripreso perché riguarda American Sniper, il film di Clint Eastwood che è uscito il 1 gennaio. Titolo: Chris Kyle, tiratore scelto, e Antonio Russo ripercorre più che la storia del film, che appunto all'epoca non era ancora uscito, la storia proprio del suo protagonista Chris Kyle. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine del Foglio, dove vi segnalavo questo lungo articolo sul Chris Kyle, che è il protagonista di American Sniper, questo bellissimo, secondo me, film che l'ho visto sabato, sulla storia di appunto quello che è stato il più infallibile cecchino della storia dell'esercito americano, e che il film è tratto dalla sua autobiografia, che era uscita nel 2012, e appena un anno dopo, a soli 41 anni, Chris Kyle fu poi ucciso in un poligono di tiro da un altro reduce. La prima pagina del Fatto Quotidiano, che anche in questo caso lunedì è un'edizione un po' particolare con poca cronaca e molti approfondimenti, e l'approfondimento di questa settimana è sull''ndrangheta a Milano. Il titolo: Milandrina, i veri boss della città. Le mani su Milano, amici, droga, estorsioni nel capoluogo lombardo, dove le cosche calabre e le famiglie siciliane imperversano da anni, dove i capi organizzano i loro affari e comandano alla luce del sole nonostante le tante inchieste. Vi raccontiamo chi sono e come si muovono. Articolo a pagina 4-7, anche un racconto di Nando Dalla Chiesa. Ma passiamo un po' alle pagine interne, e sul Corriere Dino Martirano ci racconta che Renzi non è l'unico premier o presidente o comunque alta carica di uno Stato a finire nel mirino per l'uso dei voli di Stato. Sapete, è una vicenda che riguarda il fatto che lui ha preso un volo di Stato insieme alla famiglia da Firenze a Courmayeur, dove è andato in vacanza. La denuncia è stata fatta dal Movimento 5 Stelle, la replica è che è tutto regolare perché così vuole il protocollo, cioè che il Premier viaggi per ragioni di sicurezza sempre su un volo di Stato, ma insomma la polemica resta, perché sono naturalmente voli molto costosi questi. E quindi Dino Martirano ci racconta, con anche tante foto, da Netanyahu, il premier israeliano, alla famiglia Blair, i limiti e le polemiche sui voli blu. C'è un riassunto molto anche utile per, appunto, razionalizzare un po' questa vicenda, al di là dei proclami e delle denunce del Movimento 5 Stelle, i limiti e le polemiche sui voli blu. Vi segnalo poi a pagina invece 9 un reportage di Lorenzo Cremonesi da Bengasi, un'altra guerra che ci siamo un po' dimenticati. Bengasi viene definita da Lorenzo Cremonesi la città madre della primavera libica del 2011, ora accerchiata e devastata dagli scontri tra milizie. Sapete che la Libia è un paese tutt'altro che era pacificato, non si capisce ancora adesso chi comandi, c'è di fatto una guerra civile in atto, e quindi Lorenzo Cremonesi ce la fotografa, un po' ce la racconta con anche l'aiuto di alcune foto, cartoline da Bengasi, scenario di rovine dove c'erano i palazzi. Vi dicevo l'articolo di Ennio Caretto sull'incontro, sull'irrompere sulla scena politica internazionale di Mikhail Gorbaciov, e in particolare l'avvicinamento con gli Stati Uniti. Una foto appunto del 1985 di Ronald Reagan, allora presidente americano, e Mikhail Gorbaciov seduti davanti a un caminetto. Così Reagan, il pacifista, tra virgolette, spianò la strada a Gorbaciov. Reagan, infatti, che era sicuramente aveva un grande intuito politico per questioni internazionali, oltre che per capire l'umore del suo popolo, intuì che bisognava appunto puntare su questo nuovo leader, che era pur sempre il leader del più grande partito comunista al mondo, no, era già allora era la Cina, del secondo partito comunista più grande al mondo, ma era anche un uomo nuovo con cui si poteva veramente iniziare una nuova fase di dialogo. E sappiamo tutti che poi nel 1989, con il crollo del muro di Berlino, si confermò che veramente erano cambiate le cose. C'è anche un approfondimento, visto che di Russia si parla, anche se quella di Gorbaciov era ancora l'Unione Sovietica e ora invece appunto parliamo di CSI e di Russia, su Putin. Ora Putin punta a mangiarsi le strategiche isole Åland, che è un arcipelago oggi demilitarizzato che è stato sotto dominio russo con Stalin e gli zar, un arcipelago nel Mar Baltico tra Svezia e Finlandia. Da lì la Russia potrebbe controllare lo spazio aereo dell'Europa Baltica, e c'è un grande allarme tra secondo Luigi Offeddu, che ce lo racconta da Bruxelles, l'allarme degli strateghi finlandesi. Parlavamo di clandestini e di migranti. A pagina 15 del Corriere della Sera un approfondimento di Francesco Battistini: mai così tanti profughi dal dopoguerra, in aumento in Italia un aumento del 400%. Questo dati che il Corriere definisce shock del 2014 nel rapporto dell'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione. E c'è anche ci ricordano anche due schemi: quanti sono i morti durante il viaggio. Nel 2014 sono stati 4.868, naturalmente solo quelli accertati. Un articolo un pochino più leggero, su però un tema che magari abbiamo già sentito in tanti, anche se scusate, di questo servizio magari non tutti abbiamo già approfittato. Parlo di BlaBlaCar, che è questa società che in realtà ha già qualche anno, è stata fondata nel 2006 a Parigi, ma da poco è presente anche in tanti altri paesi, tra cui appunto l'Italia. È un modo per fare dei viaggi tutti insieme, una sorta di autostop 2.0, così lo definisce il Corriere. Viaggiare con sconosciuti contattati in rete grazie a questa app, e BlaBlaCar appunto ha già milioni di utenti. Le statistiche, i risultati, la fotografia di questo servizio conferma che è un servizio sicuro, e tra l'altro si sta in compagnia. Torno un attimo sulla questione della norma sulla depenalizzazione della cosiddetta microevasione, cioè quella sotto al 3%. La Repubblica ha un'intervista a Stefano Fassina, che è stato viceministro dell'economia nel governo Letta e ora viene definito parte della minoranza Dem, grande e instancabile oppositore di Matteo Renzi. non poteva mancare la sua presa di posizione su questa questione, ed eccola qua, con un'intervista concessa a Tommaso Ciriaco, eccolo che dice: Matteo troppo disinvolto, Padoan ha sbagliato. Padoan è il ministro dell'economia, gli chiede Tommaso Ciriaco: può accadere che una sanatoria del genere entri nel decreto senza che il ministero dell'economia comprenda gli effetti? Risposta: non esiste che il ministro e il ministero si facciano infilare una norma del genere durante il Consiglio dei Ministri, non è un dettaglio, quindi ci sono due possibilità: il ministro era d'accordo, aggiungo io, accusa gravissima, oppure non se n'è accorto, e non so se questa seconda ipotesi sia migliore. L'unico modo per cui si può inserire una norma del genere senza che se ne accorga il ministro è che il Dipartimento degli Affari Giuridici di Palazzo Chigi lo inserisca nel testo a Consiglio dei Ministri, concluso. Altra accusa gravissima. E vedremo un po', perché Matteo Renzi ha promesso di spiegare come sia potuto succedere, e vedremo appunto se avremo una parola definitiva su questo. Sempre dalle pagine interne di Repubblica, vi dicevo, ma ne parlano tutti i giornali, però vi segnalo da questa pagina perché c'è un'infografica particolarmente chiara, le nomine appunto di Papa Francesco, i nuovi 15 cardinali. Pagina 17 della Repubblica, Marco Ansaldo racconta: da Tonga alla Birmania, i cardinali di Francesco nel nuovo conclave, l'Europa peserà di meno. Infatti tutti quelli nuovi appunto vengono dal, diciamo, il sud del mondo. Due sono gli italiani, Menichelli d'Ancona, Montenegro d'Agrigento, solo un curiale tra i nominati, e qui quindi si riaccendono tutte queste considerazioni, queste polemiche, se vogliamo, sul fatto che Papa Francesco stia cercando di diminuire il ruolo della curia romana all'interno della governance, potremmo dire così, della Chiesa Cattolica. Ma poi una bellissima notizia, che peraltro trovate anche su altri giornali, bellissima secondo me, perché Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che è il social network più importante del pianeta, pensate che nel pianeta, in Italia credo che abbia 24 milioni di iscritti, ma nel mondo 1,3 miliardi, e su Facebook si scambiano 12 miliardi di messaggi al giorno, 40 minuti al giorno di stazionamento medio sulle pagine da parte degli utenti, 1,3 miliardi di dollari come utile trimestrale nel 2014, perché Facebook da un anno è anche quotata a Wall Street. Ma la notizia non sono tanto questi numeri, che un po' conosciamo, ma il fatto che Mark Zuckerberg, che ha 30 anni ed è il fondatore appunto di Facebook, ha lanciato un super club per la lettura. È un progetto a favore della lettura dei libri, ma non dei libri elettronici. Proprio lui consiglia di prenderli in mano i libri, di provare il piacere dell'oggetto libro. E è proprio un club di lettura, ci racconta Elena Stancanelli, ma come vi dicevo lo trovate anche su tutti gli altri giornali, perché è veramente una di quelle, di quegli apparenti paradossi, cioè uno dei veramente dei nativi di internet, nativi digitali, fondatore di Facebook, però ha lanciato quest'idea e consiglia a tutti di leggere almeno due libri al mese. Da Repubblica anche un bel reportage di Marco Mensurati da Cagliari sulla base dove si sta allenando Luna Rossa. Sapete che la prossima Coppa America sarà nel 2017, Luna Rossa parteciperà. L'ultima Coppa America è stata nel 2013, è stata vinta da Oracle a San Francisco, anche in quel caso Luna Rossa aveva partecipato, e c'è un grande ottimismo. Ricordiamo un po' tutti questa vicenda di Luna Rossa. In questi anni le barche sono molto cambiate, ma l'idea appunto che una barca italiana e un consorzio messo in piedi e finanziato soprattutto da Prada, dal gruppo Prada, che appunto una barca italiana sfidi a partecipi a questa che è non solo il più antico trofeo sportivo del mondo, la Coppa America, ma è anche il più importante trofeo velico. E quindi negli anni, anche se in Italia i velisti sono molto meno rispetto ad altri paesi europei, però in Italia Luna Rossa ha sempre suscitato grandi entusiasmi. Manca un bel po' di tempo alla prossima edizione, ma insomma Marco Mensurati ci racconta un po' quell'atmosfera che c'è a Cagliari. Dalle pagine interne della Repubblica, e in particolare dalla cronaca di Milano, vi segnalo un'intervista di Andrea Montanari a Fabrizio Cecchetti, che è vicepresidente regionale ed è un leghista, e dice: io politico leghista non parteciperò al forum anti-gay, questo forum anti-gay appunto che si terrà il 17 gennaio di cui si sta parlando molto, ne abbiamo parlato sabato, e l'idea appunto è che gli omosessuali siano dei malati che vanno curati, e come abbiamo visto anche sul Foglio, Giuliano Ferrara si è scagliato contro questa, quella che ha definito un'idea, adesso mi sono già dimenticata la definizione esatta, però la riprendo perché secondo me vale la pena sempre di leggere Giuliano Ferrara, la definisce una scemenza col botto e intollerante. Torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, che oggi ha tantissimi approfondimenti normativi. Per esempio c'è, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, di cui sempre si parla come un po' un buco nero di fondi pubblici, ecco, allora una cura dimagrante per 9 autorità. La spending review sul personale, ci raccontano Antonello Cherchi e Valeria Uva a pagina 5 del Sole, ha già fatto risparmiare 5,2 milioni, però pensate 18 vengono spesi solo per le sedi. Dalle pagine di Imprese e Territori, il dorso di Imprese e Territori, vi segnalo un approfondimento di Chiara Bussi sulle privatizzazioni, non solo in Italia ma nel mondo, sono in ripresa in tutto il mondo. Secondo il barometro di Fondazione Mattei e KPMG, la società di consulenza, i maggiori deal dell'ultimo biennio sono stati realizzati in Gran Bretagna e Grecia. La Cina è in testa alla classifica globale delle privatizzazioni, Londra è in testa per quanto riguarda l'Unione Europea, ma per il 2015 ci sono grandi aspettative su Italia e Spagna, e sapete che soprattutto si dovrebbero concretizzare le privatizzazioni parziali delle Poste e delle Ferrovie. Il risparmio e famiglia, la sezione che è sul lunedì e che è preparata insieme ai colleghi di Plus 24, che è il settimanale dedicato al risparmio e alla finanza, che ogni sabato viene allegato al Sole 24 Ore, oggi si concentra sulle polizze per la salute, quindi sulle assicurazioni sanitarie. Federica Pezzati ci racconta che le compagnie assicurative finora non hanno puntato con grande convenzione su questi prodotti, ma che in futuro potrebbero appunto aumentare. Questo è dovuto anche al fatto che sapete che la sanità è la voce di spesa numero uno del bilancio dello Stato nostro, ma della maggior parte degli stati. In Italia abbiamo ancora un ottimo servizio sanitario nazionale, ma che è molto costoso e all'interno del quale sicuramente ci sono degli sprechi. In futuro probabilmente alcuni servizi che finora sono stati gratuiti o per i quali pagavamo solo un ticket verranno probabilmente costeranno di più, e da qui anche la necessità appunto di avere un'assicurazione medica. Dal Sole 24 Ore, le pagine interne, continua l'approfondimento sulla legge di stabilità, oggi in particolare due pagine, 18 e 19, dedicate agli enti locali. Addio patto di stabilità, tutti i vincoli sulla casa, questo è il titolo principale. Poi gli approfondimenti, come ogni giorno, sono 6 colonnini dedicati ciascuno a un approfondimento. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, e tocca parlare anche di tasse, argomento importantissimo comunque, e sul dorso di norme e tributi abbiamo visto gli approfondimenti sulla legge di stabilità, oggi concentrati sulle novità che riguardano gli enti locali, mentre per quanto riguarda il fisco c'è un approfondimento anche in questo caso di una pagina e mezza sui reati tributari, che cosa cambia, quindi per la dichiarazione omessa, compensazioni e versamenti, fatture e contabilità, confische e custodia. E tra l'altro vi segnalo che in edicola c'è anche l'approfondimento sulla voluntary disclosure, che è il termine inglese per indicare quella procedura di collaborazione volontaria, voluntary appunto, con il fisco per regolarizzare, e si ha tempo fino al 30 settembre di quest'anno, investimenti e attività finanziarie costituiti all'estero. Poi c'è l'esperto risponde, anche in edicola come ogni lunedì, questo è il primo numero del 2015, dove appunto gli esperti del Sole 24 Ore rispondono ai vari quesiti dei lettori. Oggi in copertina ce n'è uno che secondo me riguarda tante persone, che spesso ci siamo fatti anche se magari non abbiamo scritto il Sole 24 Ore per avere una risposta, ed è quello che riguarda i rimborsi per i biglietti comprati online. Ecco, la risposta è alla domanda: c'è un diritto di recesso? E no, non c'è diritto di recesso per i biglietti comprati online. Naturalmente moltissimi altri, anche altri quesiti a cui risponde questo numero dell'esperto risponde. Dalle pagine interne della Stampa un approfondimento di Giuseppe Bottero e Nadia Ferrigo su gli effetti del mini euro. Sapete che finalmente, dopo periodi veramente in cui abbiamo avuto il super euro, adesso possiamo addirittura parlare di mini euro. C'è ancora qualcuno che invoca la parità tra, e la indica come soglia ideale tra euro e dollaro, cioè un dollaro uguale a un euro. In realtà questa parità non c'è ancora, però rispetto, per esempio, come ci ricorda lo schema sulla stampa, ai 1,486 dell'aprile 2011, ora siamo a 1,20, la chiusura di venerdì dell'appunto dell'euro sul dollaro, ed è sicuramente una bella differenza che aiuta tutte le aziende italiane che esportano. Abbiamo parlato tanto di immigrazione e di migranti. Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles, ci racconta un po' quello che è il piano dell'Unione Europea per l'immigrazione, Frontex più solido e asilo europeo. Entro la primavera sarà pronto il testo a cui lavora il commissario Avramopoulos, quattro i pilastri su cui si basa anche per una più equa distribuzione dei rifugiati. Naturalmente sapete che anche l'Italia, anche il ministro Alfano su questo ha fatto la voce molto grossa, cioè che l'Europa deve avere un ruolo maggiore, deve prendere responsabilità maggiori anche se, e non lasciarle soprattutto ai paesi che sono la prima frontiera che attraversano i migranti, come appunto l'Italia con tutte le sue coste. Dalle pagine interne del Messaggero vi avevo segnalato appunto, continuano a seguire la vicenda dei vigili assenteisti. Il garante degli scioperi indaga sui sindacati dei vigili urbani. Si riassume un po' la vicenda e ancora una volta ci ricorda il Messaggero questi dati da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan, che tornerà giovedì, quindi mancano pochi giorni. Lo dico ai ascoltatori che magari mandano messaggi dicendoci insomma che ne sentono la mancanza. Ecco, mancano pochi giorni, Alessandro tornerà, ma appunto mani sul volante, perché ci racconta il Messaggero quanti giorni medi di assenza nell'anno della PA, e sono veramente tanti, un po' in tutte le categorie. La vicenda dei rotoloni della difesa che costano 17 euro l'uno, la trovate anche qui un po' da mani sul volante, pagina 9. C'è poi un approfondimento sui giochi, visto che domani è la Befana e molti bambini riceveranno probabilmente altri regali o comunque una calza alla Befana con regalini. Ultimo rush di acquisti per i bambini in vista della Befana: Assogiocattoli e Kodakons mettono in guardia. Attenzione alla merce contraffalta che ha letteralmente invaso il mercato. Ecco come comprare un regalo e evitare problemi. Quindi un po' una guida pratica. Vi segnalo dal pagina 19 l'approfondimento sugli spettacoli del Messaggero, una bellissima recensione di Fabio Ferzetti a un altro film che è uscito il 1° di gennaio, è The Imitation Game. Ho sentito ieri Armando Massarenti, tra l'altro, che parlava di questo film perché ne aveva parlato anche sul Domenicale, e del libro da cui è tratto. È la storia di Alan Turing, il grande matematico che scoprì, riuscì a decifrare con l'aiuto di altri colleghi crittografi e matematici il codice Enigma con il quale i tedeschi crittografavano i messaggi, e è veramente un film bellissimo. Questo l'ho visto ieri, un weekend di cinema per me, la vera storia di Turing da genio perseguitato. Vi leggo solo una parte dell'articolo di Fabio Ferzetti: la storia di Turing è così dolorosa, la sua personalità così singolare e complessa, che ci è voluto tempo perché uscisse dalla cerca degli specialisti, diventando ben presto una sorta di icona. Aggiungo una piccola cosa: è considerato il padre dei computer, Turing, perché la macchina che lui realizzò per decifrare Enigma in realtà è veramente il primo esempio di computer della storia, e siamo nel 1941. Quindi una sorta di icona della libertà, del genio scientifico e dell'ingratitudine politica, o peggio, perché se nessuno, malgrado i servigi resi in guerra, fece nulla per difenderlo dalla castrazione chimica per omosessualità, allora un reato, qualcuno vede l'ombra dei servizi segreti dietro l'oscura fine di quest'uomo che sapeva troppo. Appunto, la storia di Turing viene definita così dolorosa perché morì a soli 41 anni nel 1954, morì suicida dopo essere stato condannato alla castrazione chimica perché omosessuale, una pratica che in Inghilterra è rimasta diffusa, pensate, fino al 1967. Dalle pagine interne del giornale vi dicevo il supplemento del lunedì che si chiama Controcorrente. Non c'è soltanto quell'approfondimento appunto sullo stipendio di Prodi, ma anche tutto un riassunto di quella che viene definita l'Italia dei misteri. ieri, pasticci, amnesie e delitti senza un colpevole certo. Naturalmente è una vicenda strettamente legata al fatto che da noi i processi durano così tanto, sono molti i casi che vengono ricordati. I più recenti sono quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa che aveva 3 anni quando scomparve il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo vicino a Trapani, e sapete che di recente si è un po' riaperto il caso, perché si sono intercettate le telefonate, non si capisce bene il ruolo della madre e della zia in questa vicenda, comunque mistero irrisolto. E poi naturalmente quello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, aveva 26 anni e l'imputato ancora oggi, il principale imputato è il fidanzato dell'epoca, Alberto Stasi. C'è poi, visto che l'anno è appena iniziato, è ancora un po' tempo di anticipare quello che verrà, i 10 italiani che cambieranno il mondo, secondo il giornale. Il professore manager che mette in riga persino la Casa Bianca, e il caso di questo professore, appunto, Stefano Bertuzzi, partito per gli USA dopo la laurea, oggi dirige l'American Society of Cell Biology, che conta negli anni 32 premi Nobel, 6.000 ricercatori che dettano la politica scientifica a presidente e congresso, e molti altri anche, tra i quali anche Fabiola Gianotti, che sapete è stata citata anche dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno, è la prima donna a presiedere il CERN, a dirigere il CERN di Ginevra, uno dei forse il più grande laboratorio di ricerca europeo. Vi segnalo un'intervista a Gavino Sanna, il pubblicitario, che insomma quello che si è inventato il mulino bianco, e ora dice: altro che mulino bianco, la famiglia non esiste più. L'intervista a Gabriele Villa, il pubblicitario che ha inventato gli spot che hanno segnato un'epoca. Mi piacerebbe tornare a quell'Italia dove almeno c'era l'idea di un sogno. Oggi è tutto sgretolato e dominato dalla volgarità. E poi vi segnalo, perché su Controcorrente del giornale c'è la parola della settimana. La parola della settimana oggi è statali, che ci spiega il giornale. L'etimologia viene dal latino status, condizione, posizione, stabilità, derivato di stare, star fermo, e segnalano poi delle citazioni. Allora, per esempio, Georges Clemenceau, un politico francese morto nel 1929, diceva: gli impiegati statali sono i mariti migliori, quando tornano a casa la sera non sono stanchi, hanno già letto il giornale. E poi Otto von Bismarck, uno dei più famosi cancellieri della Germania, morto nel 1898: con cattive leggi e buoni funzionari statali si può sempre governare, ma se essere cattivi sono i funzionari, le buone leggi non servono a nulla. Parole pronunciate tanti anni fa, ma ancora molto attuali. Vi risegnalo dal Fatto Quotidiano questa impressionante inchiesta sulla presenza dell'Andrangheta a Milano, e poi il Fatto Quotidiano ha anche una bella intervista a Paolo Giordano, lo scrittore torinese, sapete che ha esordito con un romanzo che ha avuto un enorme successo, ma poi ne ha scritti anche altri. Quel romanzo era La solitudine dei numeri primi. Paolo Giordano è del 1982 e qui ci racconta un po', insomma, la sua Torino nel fiume Po, la solitudine dei numeri primi. Un altro approfondimento che mi ha molto divertito, io ci sono stata un paio di volte di passaggio e mi sono insomma molto ritrovata in alcune delle considerazioni, è il racconto di Alessandro Ferrucci, inviato a Dubai, ma proprio in particolare lui ha passato molto tempo all'interno dell'aeroporto di Dubai, che già da 2 anni è diventato lo scalo più trafficato al mondo, superando Heathrow, l'aeroporto di Heathrow, e è veramente, forse non è neanche più un non luogo, come definiva Marco Gé gli aeroporti, perché qui è un luogo che ha una sua fisionomia, tanto shopping, tanto intrattenimento. Alessandro Ferrucci lo definisce il regno dell'effimero che vive dentro a un aeroporto. Il duty free è diventato uno dei grandi magazzini del lusso più famosi al mondo, dove si può acquistare qualunque cosa a prezzi però che possono essere anche irraggiungibili. Che giornale è? È il Fatto Quotidiano. Da leggere. Cioè... E appunto volevo proprio passare la parola a Irene, perché ci anticipa. Quindi l'aeroporto ancora di Dubai, e ci hai segnalato troppe cose interessanti. Forse insomma in questi giorni si ha ancora un pochino più di tempo per sfogliare i giornali con un po' più di curiosità, di attenzione a cose non strettamente di cronaca, anche se di cronaca ti occupi tu. Quindi mi ha incrociato un ragazzo per strada, mi ha indicato col dito e ha detto: guarda mamma, i giornali di carta. Sono rimasta un po' così. Però vedi che Zuckerberg invece dice: leggete 2 libri al mese, quindi forse un giorno dirà anche: leggete un giornale al giorno. I giornali di carta, mi sono sentita su un dinosauro veramente. Cioè, comunque grazie, davvero interessantissimo. Vi segnalo anch'io un articolo su un giornale di carta, parla di una mensa per i poveri, purtroppo sempre più trafficata, questa è naturalmente frequentata e su questo non fa eccezione, però è una mensa frequentata da italiani che si trova oltre confine, cioè abbiamo ormai i frontalieri della povertà, si va anche in Canton Ticino, si va a Lugano pur di avere un pasto caldo. Uno degli indicatori tanti del disagio sociale che cresce, sono quasi 500.000 gli italiani che non ce la fanno, cioè 500.000 in più, cresce di 500.000. Questi sono i calcoli del centro studi di Una Imprese sulla base dei dati Istat. Noi affronteremo questo tema parlando di sfratti, parlando di occupazioni e parlando per una volta di politiche a lungo termine sulla casa e sull'edilizia pubblica. Questo dovrebbe essere l'orizzonte a cui tendere, che è stato abbandonato dalle istituzioni negli ultimi anni. Vogliamo sentire anche le vostre esperienze, le vostre opinioni? Scriveteci al 349-238-6666. Intanto grazie a Giulia Crivelli, ci ritroviamo anche domattina. Domani. E noi ci ritroviamo subito dopo il GR News. 24 mattino. Grazie per questo omaggio musicale. 8:16, Irene Zerbini ancora al microfono. Io vi ricordo che stiamo raccogliendo le vostre proposte, cioè fatelo voi il Jobs Act sul lavoro, proprio così. E chiunque abbia da dire, proporre, suggerire, soprattutto dirci cosa desidera un lavoratore, qual è il parametro più importante per, se fosse possibile ancora praticarla, la scelta di un lavoro, e scrivetecelo a 24mattino@radio24.it, e ricordate anche che sarà lo speciale di dopodomani, per cui scriveteci celermente così che possiamo raccogliere anche i vostri suggerimenti, anche le vostre osservazioni. 24mattino@radio24.it. Per partecipare alla trasmissione di oggi invece continuate a scriverci 349-238-6666 tramite SMS, oppure dalle 8:30 sentiremo anche le vostre voci, 800-24-00-24. Parleremo purtroppo ancora una volta di povertà, di disagio e di sfratti in particolare, anche se cercheremo di comprendere insieme quale dovrebbe essere per esempio la politica di edilizia pubblica che potrebbe portare vantaggi, benefici a lungo termine e perfino la possibilità di profitti. Ne discuteremo con i nostri ospiti. Ora saluto il nostro corrispondente straniero. Buongiorno Alessandro Bertellotti. Buongiorno a voi, buongiorno da Lugano, dalla Svizzera. Attenzione, perché è un piccolo confine, nel senso che per quanti chilometri si estende il confine svizzero-italiano? La lunghezza non la so, so che da Lugano a Milano i chilometri sono 72, quindi siamo relativamente vicini. Esatto, dicevamo, rispetto alle altre nazioni che abbiamo incontrato nel corso di questa rubrica, visti da fuori, naturalmente siamo fisicamente vicini. Eppure c'è a volte un abisso tra la mentalità, il sistema, il modo di concepire relazioni, scuole, lingue, fiscalità tra Italia e Svizzera. Se tu dovessi concentrarti, tu che sei conduttore, tra l'altro lo ricordo in questo momento, di un programma quotidiano, si chiama Mille Voci sulla Radio Svizzera, se tu dovessi concentrarti su quelle che sono le differenze principali, chiaro, uno ci potrebbe scrivere anche un'enciclopedia, ma dovendo sintetizzare in uno slogan, in una frase, quali sono gli elementi che distanziano gli italiani dagli svizzeri? Allora, hai ragione quando dici che davvero ci vorrebbe un'enciclopedia. In realtà i rapporti tra Italia e Svizzera sono da sempre solidissimi, straordinari, c'è una formidabile ammirazione che dura nei secoli della Svizzera nei confronti dell'Italia e una formidabile attenzione dell'Italia anche nei confronti della Svizzera. Poi magari durante la trasmissione ci cascheremo casualmente, ma soltanto ricordare da questa parte di confine formidabili sono le contaminazioni nell'arte, nella cultura, nell'architettura. Insomma, l'Italia ha esportato questo genere di prodotti per secoli in tutto il mondo e l'Europa ha un debito probabilmente incalcolabile nei confronti dell'Italia da questo punto di vista e allo stesso tempo, cito sempre a memoria, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale la Svizzera aiutò tantissimo per esempio i movimenti antifascisti o aiutò i profughi a pari condizioni, cioè i cittadini svizzeri e i cittadini italiani erano trattati esattamente alla stessa maniera, non c'era neanche bisogno di presentarsi alla frontiera con una carta d'identità per entrare in Svizzera, ma formidabile è stato anche l'aiuto durante il Risorgimento. Insomma, la storia è formidabile nel legame tra le due nazioni. In questo momento, se dovessi ridurre, ho fatto slogan, tutto questo preambolo storico che, come dire, ha solleticato l'orgoglio nazionale e da questa e da quella parte del confine e ha lusingato molto il nostro sentire di italiani, veniamo al dunque, carissimo, esatto, Alessandro Bertellotti. Se dovessimo ridurre tutto a uno slogan, direi che in questo momento c'è una differenza di mentalità e voilà, e l'abbiamo detta subito, nel senso che la Svizzera dedica un'attenzione a determinate caratteristiche della società che l'Italia, secondo noi, o almeno si ha la percezione, si stiano perdendo in Italia o siano utilizzate in modo molto più sfumato quando si parla di lavoro, come hai accennato in apertura di trasmissione, o di attenzione per esempio all'abitazione, a pigione moderata o sovvenzioni o assistenza per chi la casa la cerca e non la trova, insomma da questa parte di confine probabilmente si lavora in modo completamente diverso e poi c'è un'attenzione differente per quanto riguarda proprio la partecipazione alla vita collettiva e alla comunità in generale, cosa che in Italia secondo me si fatica a vedere. Quando parli di interventi dal punto di vista pubblico, chiaro che ci sono delle differenze cantonali naturalmente, certo, visto che il federalismo lì non è uno slogan, ma è una realtà consolidata e applicata. Quando parli però in generale di linee d'orientamento per gli interventi pubblici sulla casa o sui segmenti della società che si trovano in stato di bisogno, come potresti riassumere questi interventi? Molto semplicemente esistono dei finanziamenti federali, sono appena stati stanziati circa 2 miliardi di franchi su 6 anni, quindi 1 miliardo e 700 milioni di euro per realizzare alloggi a pigione moderata, sono circa l'8% del monte abitativo, della quantità di abitazioni presenti sul territorio svizzero, società di pubblica utilità, comuni, cantoni, ma anche privati possono impegnarsi a realizzare case proprio destinate a una pigione contenuta e quindi a accogliere una fascia della popolazione. Ripeto, l'8% è una fascia abbastanza corretta di popolazione che ha bisogno di una casa ma che non può permettersi l'affitto a libero mercato e queste case vengono realizzate sul territorio con grande attenzione, visto che sono coinvolti anche appunto gli enti pubblici e le istituzioni, e funziona, il sistema funziona. Ho letto poco fa proprio su Lugano dove questo sistema di edilizia è assolutamente efficace, anche se si abbassa la guardia, e questa è un'attenzione che la Svizzera dedica sempre molto al futuro e non soltanto al presente, non è il caso di abbassare la guardia, proprio perché altrimenti il rischio è in un futuro non troppo lontano di avere poca residenza e pochi alloggi a pigione moderata. Quindi comunque mantenere una formidabile attenzione su tutti i quartieri in cui è divisa la città per distribuire questi alloggi su tutto il territorio comunale. E noi adesso andiamo vicino al Palazzo del Ghiaccio di Lugano, dove ci aspetta Fra Martino Dota. Buongiorno, grazie per il suo tempo, Fra Martino. Buongiorno. Tempo particolarmente prezioso, visto che lei si dedica a una mensa aperta a chi? Chi può usufruire dei vostri pasti e dei vostri servizi? Beh, io sottolineo sempre che si tratta di una mensa sociale, quindi è tutto un luogo di incontro, di socializzazione di base, quindi aperto a chiunque. Ovviamente riserviamo un'attenzione particolare a chi si trova in difficoltà, sia per quanto riguarda l'alloggio che anche il pasto e la soddisfazione dei bisogni elementari. Fra Martino, è stato segnalato dal Corriere della Sera qui in Italia che alla sua mensa ormai, in misura sempre più consistente, sempre più significativa, arrivano gli italiani, cioè gli italiani che passano proprio il confine per venire a usufruire del suo pasto caldo. Tra l'altro si chiede nella mensa di Fra Martino ai propri ospiti un modesto contributo finanziario o la disponibilità anche a svolgere una mansione interna. È un atto e una richiesta di grande civiltà, credo molto rispettosa della dignità delle persone, Fra Martino. Quanti italiani avete tra i vostri commensali? Diciamo che è un po' difficile per noi fare dare delle cifre precise, perché non teniamo. È chiaro, non chiedete la carta d'identità, certo. Esatto, però direi che siamo attorno al 20% degli ospiti, se calcoliamo che giornalmente abbiamo tra le 25 e 30 persone che usufruiscono della nostra struttura, una quota comunque significativa è costituita da persone provenienti dall'Italia, dalla fascia di confine, ma a volte anche da Milano, dal centro Italia, addirittura anche dal sud, dalle isole, eccetera. Sono persone alla ricerca sostanzialmente di lavoro, ma anche di una sistemazione migliore rispetto a quella che hanno o avevano in Italia. Ma a volte cosa... sono persone che non hanno più un alloggio, magari hanno anche rotto i rapporti con la propria famiglia, quindi sono alla ricerca di una migliore sistemazione. È chiaro. Fra Martino, questi italiani cosa li raccontano? Perché naturalmente lei, oltre a servire e a far servire pasti caldi, è un punto di riferimento ed è una persona a cui tutti quelli che arrivano si aprono con le proprie storie, con le proprie difficoltà, con i propri disagi. Qual è l'elemento ricorrente di queste vicende, di questa nuova povertà degli italiani che arrivano addirittura in Svizzera pur di trovare un pasto caldo? Sì, forse ho anche precisato che una parte di queste persone di frontalieri sostanzialmente fa capo a strutture di accoglienza a Como, Varese o anche a Milano, quindi spesso sono già persone in difficoltà che usufruiscono di servizi di prima necessità garantiti in Italia, ma che per motivi a volte di liste d'attesa molto, molto ampie non possono più usufruire ad esempio di un dormitorio piuttosto che di pasti caldi. Ovviamente queste persone sono alla ricerca di una sistemazione, ma spesso sono al limite della disperazione proprio per la mancanza di alloggio, di lavoro, di una rete sociale che possa di nuovo sostenere anche nei momenti di difficoltà. La percezione che abbiamo al di qua della frontiera della realtà sociale italiana è una rete che si sta sfaldando, per cui a volte si salvi chi può, nel senso che è difficile anche all'interno dei nuclei familiari trovare il necessario sostegno per risolvere le proprie difficoltà. E lei ha detto che cerca di far capire loro che devono prendere in mano il loro destino, non si può commettere l'errore che siano altri a risolvere la nostra vita. E com'è possibile a volte in certe condizioni portare avanti quanto lei insegna, Fra Martino? Sì, beh, quello che noi proponiamo oltre al pasto caldo è anche la possibilità di fare la doccia al bucato, quindi di risolvere anche questi altri bisogni elementari, ma quello che non offriamo è una consulenza per trovare lavoro, non siamo un'agenzia di collocamento e quindi suggeriamo e a volte anche con una certa insistenza, ma constatando la difficoltà a risolvere la propria situazione, suggeriamo ai nostri ospiti, questo in genere, di darsi da fare e quindi magari di presentarsi spontaneamente ai datori di lavoro, alle agenzie di collocamento, proprio per non adagiarsi, per non arrendersi in qualche modo, perché è chiaro che poi queste situazioni si intrecciano anche a aspetti psicologici che tendono a cronicizzarsi di depressione, diciamo così. Fra Martino, innanzitutto grazie, la lascio andare al suo lavoro, al pasto. Ho letto anche dei menù: farfalle al sugo, riso in bianco, melanzana alla parmigiana. Cosa cucinerete oggi? e questo non so ancora dirglielo, perché il nostro cuoco è comunque andato a ritirare del cibo già pronto in un albergo di Lugano che due volte alla settimana ci offre dei piatti già pronti, e quindi è sempre un po' una sorpresa quello che arriverà cuoco, ma in ogni caso i pasti sono sempre abbondanti grazie anche alla generosità di chi ci sostiene. Beh, sono bellissime queste visioni di solidarietà che lei ci ha tracciato dalla Svizzera, guardate un po'. Fra Martino Dotta, grazie. Questa è la mensa delle Acli di Lugano in Canton Ticino. Avete sentito, ormai il 20% degli ospiti arriva dall'Italia. Tra poco analizzeremo più in profondità questo disagio legato a diverse ragioni nell'esistenza e nel percorso di ogni individuo. Alcune sono ragioni personali, per esempio c'è chi ha perso il nucleo familiare, chi si è separato, chi si è divorziato tra le persone in difficoltà in Italia, chi ha divorziato, ma c'è anche chi ha perso il lavoro e soprattutto chi non riesce più a permettersi un alloggio. L'emergenza abitativa può essere indicata tra i primi elementi che determinano questa situazione. 24 mattino. E ci ritroviamo 34 minuti dopo le 8 e ancora una volta buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo parlando di sfratti, di povertà. Siamo il paese con più case di proprietà, ma il numero dei senza tetto è in costante aumento e man mano che ne parliamo riceviamo aggiornamenti, e questa è la cosa incredibile. Rispetto a venerdì abbiamo altri dati: cresce di quasi 500.000 il numero di italiani che non ce la fanno. Questi calcoli sono del Centro Studi Un'impresa sulla base dei dati Istat, cioè il totale dell'area di disagio sociale comprendeva 9,21 milioni di persone nel terzo trimestre del 2014, se dobbiamo dare il numero spaccato al capello, come direbbero a Roma. Rispetto al terzo trimestre del 2013 risulta un aumento del 5,3%. 3 milioni di persone disoccupate, ma questo non basta. Un'impresa somma a questo dato anche i lavori con contratti a tempo determinato, part time, i lavori diciamo così con contratti che non sono regolarizzate. Ebbene, in un anno 466.000 persone in più sono entrate nell'area di disagio sociale. Perché ne parliamo? Perché vogliamo prendere in esame un decreto indicativo, un decreto che ha provocato titoloni sui giornali venerdì, ma sul quale vanno precisati alcuni elementi. Si tratta del rinnovo, attenzione, della sospensione degli sfratti per finita locazione, cioè pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo delle mille proroghe. Si è scoperto che ha recepito la decisione che era stata presa alla vigilia di Natale riguardo questa sospensione. C'era una sospensione di sfratti, era stata concessa nel 2013 per quei nuclei familiari che avevano certe caratteristiche e di reddito e di situazioni molto difficili da gestire. Ebbene, quella sospensione non c'è più, ma in cambio sono stati stanziati naturalmente dei fondi affitti si chiamano, così da sostenere queste famiglie. È una misura che può funzionare, soprattutto c'è un rischio, come hanno denunciato le associazioni di inquilini, di ulteriori sfratti in arrivo di 30.000 persone che possano finire sotto un ponte. Abbiamo detto alcuni elementi da precisare. Il primo che dobbiamo dire e dare da questi microfoni riguarda la morosità. Attenzione, non stiamo parlando di sfratti per morosità, capisco che sia un po' tecnico, ma è importante sottolineare tutti gli aspetti e tutti i dettagli fino in fondo. Sono sfratti per finita locazione. Di che si tratta esattamente? Lo chiediamo a Walter De Cesaris. Buongiorno, benvenuto, grazie per il suo tempo. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Walter De Cesaris è il segretario nazionale del sindacato Unione Inquilini. E naturalmente sull'altro fronte, anche se non è una vera e propria controparte in questo caso, perché abbiamo convocato, invitato anche il ministero, il ministro Luppi, ma non ha partecipato alla trasmissione. Comunque, una voce e un'opinione, una posizione diversa rispetto a quella dell'Unione Inquilini è quella di Confedilizia. Grazie e saluto l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Sforza Fogliani è il presidente di Confedilizia. Cominciamo dagli inquilini. Allora, dicevamo, di che si tratta esattamente? Si tratta esattamente di quello che ha detto lei. In Italia non c'è alcuna sospensione generalizzata degli sfratti, alcune informazioni giornalistiche un po', diciamo così, che hanno tagliato con l'accetta non hanno colto la situazione, insomma, ecco. Le do soltanto un dato, ecco, nel 2013 sono stati emessi circa 80.000 nuovi sfratti, circa, insomma, un po' meno di 80.000 nuovi sfratti. Sono in continuo aumento gli sfratti dal 2007, dal 2008, l'anno in cui, diciamo, c'è stato lo scoppio conclamato della crisi. E ormai oltre il 90% delle sentenze che vengono emesse sono per morosità. E questo è il vero dramma della condizione degli sfratti. Qui parliamo di una porzione, diciamo, molto più limitata, parliamo degli sfratti per finita locazione, cioè per quegli sfratti per i quali l'inquilino paga regolarmente l'affitto, per i quali il proprietario non ha, diciamo, non ha agito la necessità, cioè non gli serve l'appartamento. E parliamo poi di... Attenzione, perché qui, scusi se la interrompo De Cesaris, ma stiamo parlando di universo casa. Siamo stati bombardati da notizie riguardanti gli sfratti, ma parallelamente anche notizie di occupazioni. Quando si è parlata di questa sospensione degli sfratti, moltissimi hanno inevitabilmente pensato a una sorta di depenalizzazione dell'occupazione, cioè non si sfratta più e quindi è possibile occupare. E per quello ci teniamo a precisare, questa situazione, questo decreto parla di un segmento della popolazione che l'affitto l'ha sempre pagato. Adesso esiste anche la morosità incolpevole, quindi lungi dal puntare il dito contro chi non è in condizione di pagarlo, però stiamo parlando di un segmento della popolazione che si è visto scadere il contratto, non è sfrattato perché non ha pagato. È una precisazione importante. E riguarda, voi avete detto, quante famiglie questa possibilità ora di finire su una strada? Allora, diciamo, su questo i dati possono essere vari, io non mi vado a giocare al gioco dell'otto sul numero. Per darci un'indicazione. Io ho parlato con l'assessore di Roma, sì. L'assessore che lo ha detto, a Roma dovrebbe riguardare una platea di circa 3.000 famiglie, questo è quanto ci ha detto. Questo solo nella città di Roma, ma che famiglie sono, descrivendo le caratteristiche in sintesi? Allora, devi avere due caratteristiche congiunte, una è il reddito, che è obbligatoria. Non superare i 29.000 euro lordi complessivi come reddito familiare. Sì. L'altra condizione è che deve essere contemporaneamente presente una delle seguenti condizioni: presenza di anziani con più di 65 anni di età, minori, portatori di handicap grave, cioè superiore al 66%, e malati terminali. Insomma, possiamo dire De Cesaris, questo, sì. Famiglie particolarmente bisognose che non possono lasciare il proprio appartamento perché non ne possono trovare un altro sul mercato? Perché evidentemente che per condizioni economiche e per condizioni sociali non hanno questa condizione, cioè questo è evidente, insomma, che in questo caso per la totalità. Poi nella nostra esperienza concreta rispetto ai sportelli che noi abbiamo nel territorio, nella stragrande maggioranza si tratta di anziani. La stragrande maggioranza, e quindi anche l'80% certo. Riguarda, diciamo, anziani, e quindi in cui sono sopravvenuti ulteriori, diciamo, condizioni di difficoltà. Anziani soli. Vorrei... Voi cosa chiedete De Cesaris? Sostanzialmente noi chiediamo questo, perché voglio dire, qui nessuno e noi per primi non siamo innamorati delle proroghe, perché comunque prorogare una condizione, diciamo, in cui comunque di precarietà non è comunque una soluzione, diciamo, ottimale neanche per le famiglie che vi abitano, insomma, no? Perché è la precarietà che andrebbe. Sì, hai sempre la strada di la spada di Damocle comunque a fine anno. Esattamente, però il punto è questo, che se la condizione è il passaggio da casa a casa, è l'obiettivo rispetto al quale noi ci battiamo, per questo chiaro. Il nostro dibattito c'è un convitato di pietra che è il governo. Se la condizione è quella del passaggio convitato da casa a questo non è accettabile. È chiaro, convitato di pietra è l'interlocutore naturale in ogni democrazia, cioè si chiedono interventi di edilizia pubblica che portino alla disponibilità di alloggi anche per questa tipologia di persone. Tra poco vedremo questo meccanismo infernale dell'emergenza, ecco, il termine chiaro. Emergenza è un termine che andrebbe escluso perché appunto l'emergenza darebbe conto di un evento straordinario, qui non siamo che di straordinario non è, poi che lede la dignità delle persone, e tra poco daremo conto anche di quello che si fa in Europa. Cosa succede invece in Italia? Che in assenza dello Stato molto spesso sono i proprietari privati chiamati, come dire, a mettersi una mano sul cuore, a dire nonostante sia scaduto il contratto d'affitto, questa famiglia è troppo bisognosa, le concedo un altro anno, e si chiede quindi in continuazione che qualcun altro, prima abbiamo sentito la mensa dei poveri addirittura del Canton Ticino che si fa carico delle problematiche che in Italia abbiamo, che qualcun altro sostituisca quello che dovrebbe essere un intervento a lungo termine di welfare. Confedilizia, dunque, abbiamo scattato una fotografia della situazione, Corrado Sforza Fogliani, e a fronte dei dati sul disagio, sulla possibilità di serati per queste famiglie deboli che abbiamo sentito, qual è il vostro commento e la vostra posizione? Ma lei ha parlato di mano sul cuore da parte dei proprietari. In effetti la mano sul cuore, i proprietari che assicurano oggi l'affitto, che è da sempre la proprietà diffusa, non sono certo i grossi proprietari, la mano sul cuore i piccoli proprietari se la sono messa e se la mettono da anni e da anni. Certo oggi è più difficile qualsiasi azione in questo senso da parte della proprietà, perché l'affitto non rende più niente. Noi siamo riusciti in Italia a mettere insieme affitti alti, non lo nego, e una fiscalità esagerata, a causa proprio di una fiscalità esagerata esiste questa condizione abitativa in Italia, la impossibilità di accedere a certi canoni e l'impossibilità della proprietà di abbassarli, perché già non rendono, sarebbe differentemente un rimetterci. Ora io credo che in questo, cioè, possiamo dire, avvocato Sforza Fogliani, che siamo riusciti, dunque lei ha detto l'affitto non rende, diciamo che le rendite d'affitto sono, se non annullate, azzerato, comunque molto, come dire, mitigate dalla tassazione incredibile che la casa in Italia ha. Certamente, è appunto quello che stavo dicendo, ma credo che in questo dibattito si debba prima di tutto tenere presente che cosa ha significato lo sblocco degli sfratti e che cosa è invece la situazione generalizzata. La situazione generalizzata, o meglio la situazione che ci troviamo oggi ad avere, è una situazione che vede in difficoltà tanto la proprietà diffusa che gli inquilini. Ma una proroga generalizzata non c'è stata, e lo sblocco che è stato ora finalmente fatto è uno sblocco molto limitato, per il quale occorre fare molte precisazioni sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista delle categorie che hanno riguardo allo sfratto stesso, considerando che si parla sempre di handicappati eccetera, quindi di persone particolarmente disagiate, ma si dimentica anche di dire che questo blocco che ora è stato sbloccato riguardava anche i figli fiscalmente a carico, sul presupposto sempre del dato di reddito già citato. Quindi questo dei figli fiscalmente a carico, quindi sostanzialmente di avere un figlio nel nucleo familiare, è un allargamento notevole al di là delle categorie che sono già state citate. Ho capito, rimanga con noi perché naturalmente continuiamo a parlare di questo e tra poco le presenteremo anche una famiglia, visto che ci state chiamando all'800 24 00 24, che fino a poco tempo fa aveva proprio questa proroga. Grazie al Corrado Sforza Fogliani e Walter De Cesaris, ma noi continuiamo, ci siamo solo interrotti un attimo perché è arrivato il momento di controllare qual è la situazione del traffico sulle strade italiane. 24 mattino. Abbiamo voluto porgere anche a Pino Daniele, inevitabilmente nel corso della giornata ce ne saranno diversi e diversi ricordi proposti dalla redazione di Radio 24. Siamo il paese con più case di proprietà, ma il numero dei senza tetto è in costante aumento. Alcuni numeri: la causa di sfratto 89% per morosità, stiamo parlando di dati del Ministero dell'Interno, 7,4% per finita locazione, 3,6% per necessità del locatore. Quindi alla fine gli sfratti per necessità del locatore sono veramente residuali. Il numero degli sfratti emessi nel 2013 è cresciuto rispetto all'anno precedente del più 4,4%. Non sono ancora disponibili i dati aggiornati sul 2014, vi dico solo che l'anno scorso la regione in cui si sono subiti più sfratti è stata la Lombardia, e lo dimostra anche il numero dei senza tetto a Milano, in costante crescita. Pensate, negli ultimi 4 anni sono cresciuti del 69%, siamo a 13.000 persone per strada. In lista d'attesa delle case popolari a Milano ci sono 23.000 nuclei. Sapete quanti alloggi sono stati assegnati l'anno scorso a Milano? 2014, questo a fronte di 9.000 alloggi sfitti dell'edilizia pubblica a Milano, perché questo è il grande nodo: gli interventi di edilizia pubblica che ci mettono ancora una volta come fanalino di coda in Italia. Ora torniamo a parlare di questo aspetto particolare dello sfratto per finita locazione, della proroga che non è stata concessa per il 2014, e vogliamo identificare, capire di che famiglie si tratta, chi viene colpito. Buongiorno al signor Paolo che ci ha chiamato, ci racconti la sua storia. Buongiorno a tutti, ho ascoltato, difatti signorina, buongiorno, l'ha fatti lei i numeri per quanto riguarda gli affitti, i dati e quelli praticamente di cui uno ha bisogno. Ci racconti la sua storia. La situazione è praticamente drammatica e penso che sia il caso emblematico proprio attuale della situazione. Mamma e papà, famiglia autorevole, bellissima famiglia italiana, gliela faccio molto breve, 54 anni di affitto a Roma, a via Concadoro, 54 per 12 sono 648 mensilità d'affitto pagate non il giorno stesso ma addirittura 2-3 giorni prima. Mai c'è stato un minuto di morosità. Che è successo? Che nel 2012 scade il contratto d'affitto, purtroppo la situazione è questa, che io sono un freelance, non ho un contratto, e quindi aiutare praticamente i miei genitori, lei lo sa, in questo periodo in Italia dove la banca non aiuta nessuno, anzi si sono addirittura chiuse di più, praticamente scade il contratto nel 2012, mio padre novantenne si comincia ad ammalare di demenza senile, e quindi quello che vorrei dire al signore presidente di Confedilizia, quando ci sono persone anziane, novantenni, ottantenni, e il problema è veramente concentrato su queste situazioni drammatiche, non è che uno può andare in giro, andiamo a vedere la casa, andiamo a vedere qui, anche perché i bonus dati dallo Stato sono di meno di 50 euro a famiglia. A questo punto, se io non ho la casa e ho i 50 euro, glieli do io a mia madre i 50 euro per pagare l'affitto. Quindi gliela faccio, gli riprendo il discorso. Cioè lei è figlio, lei è il figlio, ci racconta dal punto di vista della figlio, perché figlio. I genitori come stanno, in che condizioni sono dal punto di vista fisico? Drammatica. Papà praticamente prima di Natale, dopo 2 anni di demenza senile drammatico, è morto prima di Natale. Quindi si figuri, Quindi è recentissima la sua perdita, ci dispiace. Recentissima, quindi io non penso, cioè io non voglio nemmeno pensare che in sede di reintegro della proroga non venga data, perché è una situazione che nella situazione attuale italiana, dove il signor Renzi dice che ci stiamo riprendendo, invece la situazione è drammatica come quella del 2009, in una situazione italiana. E quindi è rimasta la mamma da sola? Io riprendo, è lei che mi ha praticamente mandato via, diciamo, mamma è rimasta sola da pochi giorni, il discorso. E praticamente lei anche è invalida sulla sedia a rotelle, quindi si figuri che il problema adesso è andare a metterci in graduatoria, e qui è lì dopo in graduatoria. Quindi per di più, in due mesi, quando manca un congiunto, lei lo sa meglio di me, per la pensione di reversibilità, sì, rimane certo, due mesi, si bloccano soldi, i conti correnti. Ho dovuto dare 10 euro a mia madre per comprarsi una saponetta, perché lo Stato ti lascia due mesi senza pensione per fare il cumulo, per fare un cumulo relativo, perché qua parliamo di pensioni veramente minime. Paolo, ci ha fotografato una situazione che non ha bisogno di dettagli aggiuntivi. A questo punto adesso, io a gennaio, arriva l'ufficiale giudiziario, io glielo dico al signor Presidente, il Presidente di Confedilizia. Sì, ma non è che gli ufficiali giudiziari dipendono da lui, capisce? Qui mia madre, come figlio, io lo dico davanti a tutti gli italiani che ci stanno sentendo, sì. Mia madre non la manderò via. Preparate due celle a Regina Celli, uno per me, uno per me, ma mia madre ha 81 anni, invalida, sulla sedia a rotelle, senza un euro, cosa che ha sempre pagato un affitto, e le tengo a dirlo, il mio... Con due giorni d'anticipo, come ha spiegato. No, il mio proprietario di Ade attuale, le dico che è proprietario di 9 immobili, 4 tenute terriere, e praticamente... vorrebbe mandare il figlio ad abitarci per conoscere la realtà romana. Ecco la sua scusa. Quindi queste cose io non posso accettarle. Non posso accettare che un proprietario con 15 case possa levare la casa dopo 54 anni a una vecchia. Parliamo qui di vecchi, di anziani e di disabili. A me a 50 anni mi tolgo Paolo, la casa. Paolo, grazie. Grazie, abbiamo in questo momento sentito veramente una situazione terribile, e in cui rientrano questa tipologia di famiglia, quelle interessate dalla proroga. La risposta a questo tipo di esigenze, di bisogni, perché non si possono chiamare diversamente, chi dovrebbe darla? Roberta Cucca, buongiorno. Buongiorno e benvenuta in trasmissione. Professoressa di sociologia urbana all'Università di Mentone in Francia, ricercatrice all'Università di Bicocca a Milano, ha studiato in tutto il mondo. Io le faccio questa domanda perché sarebbe interessante capire quali modelli seguire. Questi sono bisogni crescenti un po' in tutto il mondo. Chi dovrebbe dare risposta a questo tipo di esigenza? Lui si rivolgeva ai proprietari di casa, al proprietario di casa. Aspetta dunque al proprietario sanare questi bisogni? Ma insomma, se si vuole fare un discorso serio, ovviamente bisogna analizzare la situazione nella sua complessità e analizzare quindi le questioni strutturali che hanno portato alla situazione che descrivevate voi. Allora, giusto per citare qualche dato, in Italia abbiamo un 4% di stock abitativo pubblico a fronte del 36% dell'Olanda e del 22% della UK, Austria e Danimarca, e un 20% dell'Europa in generale. Cioè siamo veramente il fanalino di coda per quanto riguarda l'Europa rispetto alle case popolari disponibili. E per di più bisogna anche sottolineare che negli ultimi 20 anni si è fortemente disinvestito su questo settore, cioè si è passati da 1 milione di abitazioni disponibili nel 90 a 800.000 abitazioni disponibili nel 2011. Per cui il problema non è solo che non si investe, ma che si sta disinvestendo da anni in questo settore. Quindi, di fronte a una situazione del genere, con un 15%. Oltre alle case non assegnate, alle case che si lasciano decadere, ovviamente. Sto parlando sempre di edilizia pubblica, perché quello che questa famiglia ci chiedeva, anche quando c'è, non è altro che un altro alloggio. Se non è possibile rimanere in quello in cui si è, che era un alloggio INPDA poi acquistato da un privato, che ci sia un altro alloggio per le situazioni di estremo bisogno, e questo è semplicemente un atto di civiltà. Tra l'altro... I numeri li ricordava anche lei rispetto alle liste d'attesa, sta parlando di 23.000 persone soltanto, sì, a Milano, e sono cresciuti di 10.000 negli ultimi 5 anni, per cui la situazione sta esplodendo ovviamente. Fra l'altro bisogna anche ricordare che in Italia fondamentalmente non esistono alternative fra l'edilizia residenziale pubblica, quindi il canone sociale e l'allocazione privata che ha, come sappiamo, prezzi esorbitanti soprattutto nelle aree urbane, quindi a forte pressione. Chiaro, e che cresceranno perché sono sempre più tassate, come ci dicevano. Ma ci fosse almeno una tassa che fosse destinata poi a essere reinvestita nell'edilizia pubblica. Corrado Sforza Fogliani, voi di Confedilizia la vedreste di buon occhio? Ma il problema... Abbiamo purtroppo 30 secondi. Il problema ha origini vecchie. Questo sblocco ha riguardato un migliaio sì e no di casi in tutta Italia, questo è il dato essenziale. E quindi il problema non è di questo sblocco, il problema è di tutti i blocchi precedenti che hanno creato proprio questa situazione, oltre che il problema della tassazione che è smodata, per cui certo la gente disinveste perché non c'è più alcun interesse ad investire ora. No, ma si parlava di disinvestimento pubblico. Comunque grazie, torneremo su questo tema, purtroppo siamo costretti a fermarci, è un tema molto sentito, inevitabilmente ne riparleremo. Un saluto da Irene Zerbini, mi stanno sfumando, a domani.